Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di innovazione, soprattutto di innovazione nelle imprese, un elemento fondamentale per la crescita economica, e lo facciamo con Michele Bonfiglioli. Buonasera Bonfiglioli. Buonasera a lei. Michele Bonfiglioli è titolare della Bonfiglioli Consulting, che è una delle prime società di consulenza aziendale, e soprattutto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dei processi innovativi, e ha curato questo libro che si intitola L'innovazione infinita, buone pratiche e strumenti operativi per sostenere il flusso dirompente delle idee. Ecco, essendo un libro che parla di innovazione, ovviamente la prima innovazione è quella del fatto che sia un ebook, un libro edito dalla stessa Bonfiglioli, che può essere richiesto attraverso i normali canali di vendita dei libri elettronici. Sono 235 pagine, è un libro impegnativo, indubbiamente, perché è un'analisi complessiva dell'approccio all'innovazione da parte delle aziende, però è un manuale, direi, fondamentale per chi voglia comprendere come bisogna gestire un'azienda perché possa usufruire di tutti i vantaggi dell'innovazione. Ecco, cosa l'ha spinta a mettere in un libro, Michele Bonfiglioli, queste idee che voi portate avanti quotidianamente nell'ambito aziendale? Ma intanto la consapevolezza che per le aziende italiane l'innovazione rappresenta probabilmente la leva competitiva più importante, nel senso chiaro del termine, no? Dove cercare di produrre, di pensare, realizzare, produrre prodotti che gli altri non sono in grado di fare. Quindi la scintilla mi è nata quando in un'importante azienda di packaging il direttore tecnico mi disse: per fortuna che i clienti ci danno prodotti difficili, no? Perché quando invece la prima reazione potrebbe essere accidenti, no? Il prodotto è complicato, è difficile. Per fortuna che ci sono prodotti difficili, perché è l'unico modo per le aziende italiane di avere una leva competitiva importante. E per fare prodotti difficili è chiaro che bisogna avere un accento rimarcato sull'aspetto innovativo, cioè fare un qualcosa che non è stato fatto da altri e che ovviamente in qualche modo richiede una certa complessità. Da lì è nata un po' la nostra voler mettere in maniera più razionale quello che secondo noi succede spesso nelle aziende italiane dove magari si fa tanta innovazione senza saperlo, senza gestirlo. Senza gestirlo, soprattutto perché appunto c'è quella creatività che in fondo è un carattere, una dote distintiva italiana che lei mette in risalto appunto nei primi capitoli del libro, che però è una creatività che va coordinata anche con una certa programmazione, con una capacità di analisi, con uno studio. Non tutto nasce dall'intuizione, ma l'intuizione è forse quel momento in cui proprio la pianificazione poi mette alla base uno studio che ha dei risultati finali. E però lei all'inizio si dice: perché l'innovazione è così difficile? È così difficile perché le aziende spendono poco, perché le aziende spendono male, perché le aziende non spendono? Perché è difficile, Michele Bonfiglioli? Ma l'innovazione per definizione porta a fare cose nuove, e cose nuove implicano un cambiamento, e quindi di per sé il cambiamento è complesso, perché per la normale resistenza che le persone hanno al cambiamento. Credo che sia difficile razionalizzare l'aspetto innovativo e poterne fare tesoro per le successive esigenze. Spesso le aziende italiane, guidate dal bisogno del cliente, fanno magari soluzioni entusiasmanti che però a volte non rimangono patrimonio tecnologico o documentale dell'azienda, e quindi magari un paio d'anni dopo si può ripresentare una tematica vicina e si ricomincia tutto da capo. Questo è tipico un pochettino delle nostre aziende, almeno quelle meno strutturate, e secondo noi c'è tanto da intervenire lì, perché le idee ci sono, bisogna tirarle fuori e gestirle in maniera, diciamo, efficace. Ecco, la parte finale del libro è dedicata a alcuni casi aziendali, piccole imprese che con piccole o grandi innovazioni hanno ottenuto dei risultati molto significativi, sia a livello di riduzione dei costi, sia a livello di rendimento degli impianti, sia a livello appunto poi di soddisfazione del cliente. Quindi l'innovazione è possibile, anzi necessaria, anche nelle piccole, per non dire piccolissime, imprese, Michele Bonfiglioli? Assolutamente, sono riportati nel libro casi di aziende, diciamo, medie e piccole, anche casi di grandi aziende. Per quel che riguarda le medio piccole, credo che l'innovazione sia da coniugare anche con altre tematiche come la digitalizzazione e la internazionalizzazione, che sono leve competitive assolutamente importanti. Nel libro è riportato il caso di un'azienda che lavora nel mondo, diciamo, della produzione del latte, quindi settore assolutamente maturo, ma attraverso questo approccio che poi viene mutuato dal mondo automotive, no? Il libro si apre con la prefazione di Dante Rosterwald, che è stato direttore tecnico dell'Harley Davidson, persona con cui ho avuto il piacere di passare diverse serate a parlare di queste cose, oltre che di collaborare. L'azienda, diciamo, che lavora nell'industria del latte, quindi settore assolutamente maturo, è riuscita, ripensando il proprio prodotto in funzione di servizio e mettendosi nell'ottica del cliente finale, quindi nell'ottica di io non vendo solo un prodotto, ma come faccio a far produrre di più al mio cliente, è riuscita davvero ad avere risultati straordinari, applicando anche tecnologie a basso costo come le connessioni internet, e è riuscita a portare l'internazionalizzazione all'interno dell'azienda senza avere persone all'estero, ma tutto tramite una centrale operativa che è nelle colline di Reggio Emilia, dove vengono parlate 14 lingue diverse e dove si ottengono, diciamo, risultati incredibili nella connessione con i propri clienti, che non comprano più solo il prodotto, ma, diciamo, legano anche un certo tipo di servizio. Ecco, questo è un esempio, per chi vuole approfondire nel libro, di un'azienda che ha usato l'innovazione per ripensare non solo il prodotto, ma proprio il modello di business. Ecco, l'internet delle cose, citato proprio in questo caso aziendale, che riguarda un'azienda che produce apparecchi per la mungitura, una realtà vecchia quanto il mondo, che però, appunto, sposandosi con l'internet delle cose, riesce a trovare, appunto, delle forme nuove anche per sviluppare queste realtà e, appunto, per internazionalizzarsi. In questo senso l'innovazione non è solo un'innovazione di prodotto, ma è anche un'innovazione che va oltre il processo, va a investire tutta l'azienda, ma collegando l'azienda al proprio interno con tutte le fasi in cui l'innovazione può esprimersi, quindi anche appunto nell'andare verso i nuovi mercati, verso mercati sicuramente complicati e difficili, ma che sono nuovi anche per il modo con cui possono essere approcciati. In questo senso l'innovazione fa parte, deve far parte un po' del DNA di tutte le logiche aziendali, Michele Bonfiglioli. Assolutamente, lei ha centrato bene il problema. Lei si immagina un'azienda di 80 persone sulle colline reggiane che è riuscita, trasformando il prodotto non solo in un prodotto per la mungitura, ma in un prodotto che recepisca informazioni basilari sul comportamento dell'animale, è riuscita a instaurare col proprio cliente, che sono allevatori, quindi persone assolutamente, no, operanti in settori vecchi come il mondo, come ha detto lei, un approccio di cooperazione continua, dove si è aiutato l'allevatore a aumentare la produzione di latte, e non, quindi con una finalità ben precisa e non solo con la finalità di vendergli un prodotto. E in questo modo hanno potuto internazionalizzarsi attraverso, diciamo, i collegamenti, no, con la propria centrale operativa sui vari allevamenti del mondo, e si immagino in questa azienda vengono parlate correntemente 14 lingue. Quindi questo secondo me è una chiave di lettura anche per quelle aziende che non hanno i mezzi per avere presenze dirette in tutto il mondo, ma con l'utilizzo sapiente di tecnologie a basso costo e soprattutto ripensamento in ottica ovviamente innovativa del loro business e dei loro prodotti, possono ottenere vantaggi competitivi importantissimi pur rimanendo in Italia. Ecco, nel sottotitolo del libro si parla di sostenere il flusso dirompente delle idee. Ora, molto spesso si ha un'immagine di aziende un po' sedute, un po' che vivono dei loro successi, di volontà più di mantenere al proprio interno delle realtà, diciamo così, garantite. Lei parla di flusso dirompente delle idee. Da dove nasce questo flusso dirompente delle idee, Michele Bonfiglioli? Questa è proprio la capacità di andarle a scovare, queste idee che ci sono nelle aziende, a volte sono nelle persone che vivono l'azienda, chi usa i prodotti, chi monta, ma anche tutte le persone che in qualche modo partecipano alla vita aziendale. Sono dentro l'azienda o sono fuori dall'azienda? Ci sono molti esempi di collaborazioni efficaci con i fornitori, con clienti, con anche magari quasi concorrenti, perché il mondo globale implica, voglio dire, una pluralità di stimoli in questo senso, e ovviamente poi tutti questi stimoli vanno in qualche modo gestiti, e noi proponiamo un metodo per poter facilitare la uscita di queste idee all'interno di questo ecosistema che sta attorno all'azienda. E lì bisogna privilegiare sicuramente l'aspetto, diciamo, di apertura, no? Di condivisione delle varie idee, e poi a un certo punto bisogna decidere quali di queste idee devono diventare un prodotto, un servizio, e da lì in avanti cambiano sicuramente i paradigmi. Bisogna essere veloci, veloci, veloci, veloci per arrivare sul mercato prima degli altri, facendo tesoro di queste poi conoscenze che rimangono un patrimonio dell'azienda, perché il fine deve essere che l'azienda e le persone dell'azienda imparino, perché questa, certo, è l'unica arma per la competitività. E poi magari guardandosi indietro, come lei conclude uno dei casi aziendali, dice: ma in fondo è molto semplice, è molto più semplice di quanto pensavamo, anche perché si tratta solo di valorizzare appunto delle risorse che ci sono, di canalizzare le idee, di renderle, di metterle sul tappeto, di un po' tirarsi fuori rispetto a quello che può essere un tran tran quotidiano. Grazie a Michele Bonfiglioli della Bonfiglioli Consulting. Abbiamo parlato del libro L'innovazione infinita, è un ebook disponibile appunto attraverso i normali canali in cui si acquistano i libri elettronici, costa 7,99 euro, sono 235 pagine, è disponibile anche nelle librerie specializzate nell'edizione cartacea. Grazie a Bonfiglioli, grazie anche a Filippo Reggi in regia, a Luca Cremonese in redazione. Appuntamento con Economia in Pagine e per settimana prossima.